E questo era Algida Bellezza, ultimo lavoro per Netherworld. Ursus Maritimus, dedicata all'orso polare. 5 lenti e magmatici movimenti creati da Alessandro Tedeschi in questo suo ultimo lavoro. Intanto si sono aggiunti altri personaggi del calibro di Lucia Cagliazza, di Lupsi, artista che anche lei presto riascolteremo qui a Prove Tecniche, il buon Gianluca Becuzzi in trasferta toscana, credo in quel di Piombino. Risaluto Roger Kemper da Barletta. E con Antonio Zoviet, oltre ad avere in comune Claudio Rocchi e Claudio Lolli, abbiamo anche un'altra cosa che ci accomuna, cioè un sogno che sarebbe un viaggio attraverso e con la Transiberiana. Con questa colonna sonora poi sarebbe evidentemente il massimo. Rimaniamo nell'ambient più oscuro, di scuola più affine però per esempio a Raison d'être. Un altro artista italiano si chiama Phantom Ship di Roberto Faloci, un artista che consiglio caldamente di andarci ad ascoltare. Di lui è partita questa 49K-224C, che sono i gradi Kelvin, i gradi centigradi del pianeta Uranio, al quale è dedicato questo brano da ignoto, secondo lavoro, se non sbaglio, del 2012 per questo artista romano, trapiantato però in Umbria. Ce l'ascoltiamo, ignoto, per Phantom Ship. Thank you. Un vero e proprio viaggio negli abissi, questa traccia estratta dal secondo lavoro di Phantom Ship, si chiama Ignoto, questo lavoro del 2012, di Roberto Faloci, che salutiamo. 5 lavori al suo attivo, un profilo Bandcamp che consiglio chiaramente, dove si possono trovare tutti i lavori di questo artista che ho scoperto recentemente. Questa traccia, come ho già detto, si chiamava 49K-224C, la leggo in italiano per semplicità, ed è la temperatura del pianeta Urano, meno 224 gradi sotto zero, 49 gradi Kelvin in un'altra scala. Bellissimo l'inizio del pianoforte, veramente ipnotico e affascinante, un pianoforte che non so se è lo stesso Roberto a suonare. Salutiamo Maria di qui a Roma, e Gennaro D'Elena di Instant Lake, un interessantissimo progetto tra synth pop e dark wave che ci ascolteremo il prossimo lunedì, un progetto proveniente dalla Campania, a conferma di come quella terra sia molto ispirata da quel punto di vista, dal punto di vista del gothic e dintorni. Abbiamo iniziato con 2 lunghe tracce lente, rarefatte per quanto riguarda il panorama italiano dark ambient, e adesso facciamo un saltone indietro nel tempo, approfittando tra virgolette della morte di Florian Schneider dei Kraftwerk, uno dei fondatori di questa leggenda musicale. Ho ritirato fuori il primo lavoro del 1970 che ci dà una dimensione Kraftwerk assolutamente sperimentale nel grosso calderone del krautrock di quegli anni. E la scorsa settimana ci siamo ascoltati Stratovarius, questa sera è il turno di Megahertz. Thank you. E con emozione devo dire, è bello risentire questo Kraftwerk numero 1 del 1970. Il flauto, e si sentiva il respiro di Florian Schneider che lo suonava. Indimenticato fondatore di Kraftwerk insieme a Ralf Hütter, è scomparso i primi giorni di maggio di quest'anno. Disco fondamentale, come lo sono stati anche quelli successivi, quando si sono più avvicinati e hanno creato in un certo senso il concetto dell'elettro e del synth pop, andando poi a influenzare tanti tanti artisti a venire. Allora, veniamo a Cristiano Bocci, che salutiamo. Veniamo a lui perché è uno di quegli artisti che piace contaminarsi ad associarsi ad altri personaggi diversi, come il caso di Paolo Acquaviva, probabilmente più affine al terreno del jazz. Questo per dire e per fare una piccola prefazione a questo progetto dal nome Duo Serpe, appunto con Cristiano Bocci e Paolo Acquaviva. Cristiano Bocci suona la parte elettronica, il sintetizzatore, la voce, eccetera, e Paolo Acquaviva il trombone. E hanno stampato da poco, il 10 aprile per l'esattezza, questo Piovono Santi, tre tracce molto particolari, tra avanguardia e appunto passaggi di jazz più estremo, recitato anche da Cristiano Bocci. Ci ascoltiamo la prima parte di Ballad for Lonely Poets. Sulla città silenzi improvvisi, varchi con un sorriso indefinibile ai confini, sei le spine di tutte le siepi. E vai, oltre fiati caldi degli uomini, il sonno dopo gli amori, l'affanno e la prigionia. Sulla petraia che azzurra, come le corolle del lino, liberata canti correndo. Ma chiudi gli occhi, se in fondo al cielo le ali bianche dei mulini si dilacerano al vento. I cali degli uomini, sulla città, sono dopo gli amori, silenzi improvvisi, l'affanno e la prigionia. Varchi con un sorriso indefinibile, sulla petraia che azzurra, sei le come spine le corolle del lino. Liberati canti correndo, se in fondo sulla al cielo città, le ali bianche silenzi improvvisi, oltre fiati caldi si lacerano al varchi con un sorriso indefinibile ai confini, l'affanno, sei le spine di se in fondo al cielo, le ali sulla bianche petraia che azzurra, come le corolle del lino, silenzi improvvisi, canti correndo, ma chiudi gli varchi con un sorriso indefinibile ai cielo, oltre fiati caldi dei sei le spine di tutte le sono dopo gli amori, l'affanno e la sulla città chiudi gli occhi, silenzi sulla petraia che azzurra, le ali bianche con un sorriso indefinibile si liberano al vento, sei le spine di tutte le siepi, ma che vai, occhi, oltre fiati caldi dal cielo, la città le ali bianche di silenzio, l'affanno e la barca con un sorriso indefinibile, sulla petraia che azzurra, sei le spine dal cielo, le ali bianche liberata canti correndo, si la città silenzio, oltre fiati caldi degli occhi, barca con un sorriso dal cielo, le ali bianche fanno le spine sulla città silenzio, barca con un sorriso indefinibile, sei le spine sulla città silenzio, barca con un sorriso indefinibile, sei le spine sulla città silenzio, barca con un sorriso indefinibile, sei le spine sulla città. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. tu mi stai accanto, lontananza del socialismo, dici d'esser vicina, fra mezzo alle angustie in nome della vita in cui ci siamo legati, trasportaci, ma solo tu. Tu mandi fumo tra una nebbia di teorie, terra fuori di ciarle e di calunnie, come una porta sul mondo e una porta sul mare e una porta sulla Georgia, da Maleti. Tu sei il paese ove le donne di Putville non piangono prima del tempo come i cuculi, e con tutta la verità io le rendo felici, e ad essa non occorre distoglierne lo sguardo. Dove respirano l'una accanto all'altra i ganci della passione non scricchiano e non danno un residuo di frazioni per sventura delle madri e dei bambini. Dove io non ricevo alcun resto in vita spicciola dall'esistenza, ma segno solo ciò che spendo e spendo tutto quello che conosco. Dove la voce è mandata a rincorrere una novità indistruttibile con l'esultanza del mio bambino mi fa eco dalla pianura. Qui sarà tutto ciò che ho vissuto nei presagi e nella realtà, e coloro di cui non sono degno, e ciò per cui fra di essi un nome. Tu sei ancora qui, e mi hanno detto dove sei adesso e dove sarai alle 5. Io ti potrei trovare nel corso, piuttosto che ciarlare in vano. Ascolteresti, ritornando, giovane, grande, libera, audace, dell'uomo giunto al limite, da una formica che è cresciuta troppo. Vi sono nell'esperienza dei grandi poeti tali tratti di naturalezza che non si può dopo aver forza completa. Imparentati a tutto ciò che esiste, convincendo e frequentando nella vita di un giorno, non si può vivere alla fine come in una resia, in un'incredibile semplicità. Ma noi non saremo risparmiati se non sapremo tenerla segreta. Più di ogni cosa è necessaria agli uomini. Ma essi intendono meglio. Tutto ciò che è complesso. È un po' un delitto interromperlo, mi rendo conto, ma sono oltre 19 minuti e ne ho mandati 10. Questa splendida traccia per Duo Serpe. Si chiama Piovono Santi, questo tre tracce con Cristiano Bocci e Paolo Acquaviva, quest'ultimo al trombone. E ci siamo ascoltati la prima parte di Ballad for Lonely Poets. Leggo. Il Duo Serpe nasce con la volontà di incrociare la musica elettronica con l'improvvisazione radicale in un progetto che ricorda molto la musica del duo nord europeo di Arve Henriksen e Jan Bang. Le manipolazioni elettroniche in tempo reale fanno diventare il computer un vero e proprio strumento musicale che prende parte attiva all'improvvisazione. Il trombone viene registrato in tempo reale, riprodotto in modo ciclico e processato per creare paesaggi sonori su cui l'esecuzione musicale si forma, cresce, si intensifica e si rarefà. Queste erano le parole di Cristiano Bocci, che ringraziamo. Peraltro campionamenti celebri con Carmelo Bene. L'inizio credo fosse proprio Cristiano che declamava versi. Ebbene, 21:53, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, prove tecniche di trasmissione fino alle 22:30 circa. Dopo qualche minuto ci sarà naturalmente 25 o'clock con Il Fantasma, altra colonna di questa radio, ospite nello spazio del professor Fefo. Dalle avanguardie italiane facciamo un viaggione in Indonesia e naturalmente tiro in ballo Raffaele Pezzella, anche se non ci sente in questo momento, attraverso la sua Indonesian Music Survey, Anthology of Contemporary Music from Indonesia. Quindi una serie di progetti indonesiani, esattamente 14. E qui è la sorpresa, un panorama sotterraneo così nascosto che, rivelato da Raffaele Pezzella, si rivela per l'appunto in tutto il suo splendore di interesse. Questa sera tre artisti, il primo è Patrick Artonot con The Return, poi The Resonance of Us con Apocalypse e infine Sahaba con Mazzareia, che è il brano diciamo più etnico dei tre. Ecco, The Resonance of Us, questo è Apocalypse e queste sempre prove tecniche di trasmissione.